America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Un incontro fra amici. A Washington il presidente Barack Obama ha ospitato per la prima volta nella capitale americana il presidente russo Dmitry Medvedev e gli ha fatto una sorpresa. And Mr. President, I hope you'll remember having a burger at Ray's Hell's Burger today. Proprio così, sono andati a mangiarsi un hamburger. Sono andati al joint, al ristorantino Ray's Hell di Arlington in Virginia. Naturalmente gli ospiti sono rimasti sbalorditi, si sono visti arrivare nel ristorante i due leader più importanti del mondo, sono arrivati ciascuno con il suo corteo di limousine, hanno mangiato e se ne sono andati. L'unico ritorno che abbiamo avuto è che Medvedev, diciamo, non è stato straordinariamente positivo. Ha detto un hamburger saporitissimo, devo dire però il tutto era un po' pesante. He visited the headquarters of Twitter's where he opened his own account. I have one as well, so we may be able to finally throw away those red phones that have been sitting around for so long. Lo spirito dell'incontro fra Barack Obama e Dmitry Medvedev è stato, direi, assolutamente rilassato. Dal contenzioso difficile teso sul disarmo nucleare, dall'accordo di Praga in cui si è cercato appunto di recuperare un rapporto che si era deteriorato durante gli anni di Bush, ecco, siamo passati a questo punto più ai dossier economici, tecnologici, e avete sentito il presidente americano che fa una battuta. Perché? Beh, perché Medvedev è arrivato in America ed è arrivato subito in California, ha voluto vedere Silicon Valley, ha detto la voglio vedere con i miei occhi, perché dice voglio produrre il sogno russo, voglio trasformare il sogno americano in un sogno russo, e dunque è importante queste cose vederle in modo diretto. Ma chi ha visitato Medvedev? Beh, ha cominciato con Evan Williams e Isaac Stone, che sono i cofondatori di Twitter, il sito di microblogging diventato ormai un fenomeno di costume. E dunque Medvedev ha inviato subito il suo primo tweet, debuttando così in russo con un ciao a tutti, ora sono su Twitter e questo è il mio primo messaggio. Obama naturalmente era entusiasta, ha detto che anche lui ha un conto su Twitter, questo è quello che ha detto poco fa quando l'abbiamo ascoltato il presidente americano, e ha fatto una proposta. Beh, adesso che siamo tutti e due su Twitter possiamo rinunciare ai telefoni rossi, ormai sono una vestigia del passato. Poi Medvedev ha continuato in questo suo giro, è andato a Cupertino, ha fatto una lunga passeggiata per i corridoi dell'Apple Computer con Steve Jobs, il mitico Steve Jobs, il quale gli ha regalato il nuovissimo iPhone 4 d'obbligo. Poi un passaggio alla Cisco System e alla Stanford University, un po' il cervello da cui è nata per esempio Google, con un discorso e una promessa: saremo sempre più, ha detto, una società aperta anche in nome di Twitter. We'll fly to Canada where we will address the issue of promoting our common views and common goals. Dunque, dopo la fuga dal protocollo per mangiarsi l'hamburger, i due leader sono rientrati alla Casa Bianca e hanno discusso della parte più seria del loro incontro, e cioè del rilancio di un dossier economico in generale, ma soprattutto della possibilità di un ingresso di Mosca nella WTO, l'Organizzazione per il Commercio Mondiale. E la notizia è che entro settembre Mosca dovrebbe entrare nella WTO. È una svolta questa, direi, piuttosto importante, perché sono 10 anni che Mosca deve entrare nel WTO e poi non c'entra mai, per cui magari poi anche adesso non ci entra, ma le resistenze erano soprattutto a Mosca e soprattutto di carattere giuridico. Per entrare nella WTO bisogna adeguare, armonizzare alcune delle proprie leggi interne, favorire la trasparenza, garantire la tenuta del sistema giuridico, il rispetto totale delle leggi, e dunque c'erano alcune cose nel codice russo che non funzionavano e che Mosca così resisteva, non voleva cambiare. A questo punto Medvedev ha detto che saranno apportati i cambiamenti necessari e dunque sarà più facile fare business a Mosca. Lo dico questo non soltanto naturalmente per l'America, ma anche per noi, ci sono una gran quantità di nostri imprenditori che lavorano a Mosca, so quali e quante difficoltà spesso incontrano proprio dal punto di vista burocratico. Ecco, potrebbe davvero esserci in corso una svolta piuttosto interessante. Infine, la parte più importante del viaggio di Medvedev è stata la tappa in California che gli ha portato a ordinare 50 aerei della Boeing. Obama naturalmente era deliziato perché quest'ordine vale 4 miliardi di dollari e soprattutto, come ha detto il presidente americano, contribuirà alla creazione di ben 44.000 posti di lavoro. Beh, è un messaggio importante questo di Obama. Uno immaginerebbe che il presidente, tutto sommato, porta dei messaggi di ottimismo, dei risultati agli americani. Invece, non è necessariamente sempre così. I sondaggi sono contro di lui. Dunque, vi dicevo che questo presidente americano è straordinario, bravissimo nel rilanciare. Riesce davanti a una sfida, a una difficoltà, a rilanciare sul campo. Lo ha fatto, abbiamo visto, con il generale McChrystal, quando sembrava che ci fosse un imbarazzo mediatico tremendo per la Casa Bianca. Ebbene, lui è intervenuto, ha dimostrato di essere un uomo deciso, lo ha fatto fuori, lo ha sostituito, è andato avanti e dunque c'è stata una risposta positiva. Ci sono mille altri esempi di così azioni di rilancio del presidente Obama, per esempio sulla Cina, dove ha ottenuto che lo yuan a questo punto diventi flessibile, ha ottenuto che la Cina comincia a pensare più alla domanda interna che solo alle esportazioni, ha ottenuto concessioni da Israele, ha ottenuto dalle Nazioni Unite il pacchetto di sanzioni contro l'Iran, si è messo d'accordo, come dicevamo prima, con Medvedev per ridurre gli armamenti nucleari. Insomma, sono una serie di successi che però gli valgono sul piano internazionale. Dunque oggi Barack Obama arriverà al G20 con un certo prestigio sul piano internazionale, ha raggiunto degli obiettivi e dunque potrà essere più aggressivo che difensivo, soprattutto sull'Europa. Però questo non si traduce in un vantaggio dal punto di vista interno. Perché? Beh, secondo me, a parte ovviamente la crisi economica che ormai resta ed è comunque aperta, ma perché Obama ha due problemi che secondo me sono due problemi di carattere di questo presidente. Il primo è che è anti-business. Non abbiamo visto una Casa Bianca, non abbiamo visto un presidente americano più anti-business di Barack Obama da almeno 50 anni. E due giorni fa, ad esempio, Ivan Seinberg, il capo della Verizon, il presidente della Business Roundtable, una delle più importanti associazioni industriali americane, ha persino formalizzato questo concetto in una dichiarazione scritta. E poi sul fronte internazionale, nelle crisi, prendiamo la crisi con la Turchia, fra Turchia e Israele, insomma, questo presidente manca di polso, non ha il coraggio di giocare d'anticipo, dà l'impressione di essere incerto, confuso, insomma, ed essere anti-business e non avere polso in America, beh, non sono due cose da poco, perché gli americani non sono per natura anti-business e in politica estera preferiscono essere temuti e rispettati piuttosto che amati e ignorati. Però Obama impara sul campo, dall'affare McChrystal credo che abbia imparato molto, a questo punto dovrà rilanciare sul business. Intanto, al di là di sondaggi negativi che abbiamo visto ieri della NBC Wall Street Journal, gli americani restano preoccupati sul medio periodo. Un paio di mesi fa il presidente aveva un indice di gradimento 41-44%, adesso è attorno al 48%. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Un gruppo di cantanti si sta coalizzando per boicottare l'Arizona dopo la durissima legge sull'immigrazione. Ebbene, questa coalizione si chiama Sound Strike. C'è un cantante importante che si è unito a questa coalizione, Conor Oberst del Nebraska, e a lui dedichiamo la canzone del giorno. First Day of My Life, Conor Oberst. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go.